dove stasera presenteremo un romanzo, il romanzo di cui si parla di più in Italia in queste settimane. No, non c'è ironia, perché diciamo, stanno recensendo ovunque, per fortuna, perché è veramente un libro straordinario, che è La ferocia di Nicola La Gioia. E la persona che è accanto a me è ovviamente Nicola La Gioia, che ringrazio molto per aver scritto questo libro, e anche gli altri. Io poi, come vedrete, ho portato le opere complete, ma anche perché lui sta facendo un tour di presentazioni veramente faticoso, e tra l'altro a Palermo aveva già presentato già stamattina La ferocia dai nostri amici di Modus Vivendi, i quali comunque curano insieme a noi un banchetto che trovate nella saletta qui adiacente dei bambini, dove potete, qualora non l'aveste ancora colpevolmente fatto, comprare La ferocia di Nicola La Gioia, L'armata dei sonnambuli che abbiamo presentato 2 giorni fa, e Cartongesso di Francesco Maino, che invece presenteremo martedì sempre alle 20:30, sempre qua. Prima di parlare della ferocia e di fare parlare soprattutto Nicola La Gioia, che dicevo ringrazio perché, malgrado questo tour impegnativo e malgrado diciamo potesse non avere interessi commerciali, per così dire, a fare 2 presentazioni faticose nello stesso giorno, prima di ripartire domani mattina per Messina, poi per andare a Catania, poi per tornare a un altro giro di presentazione, invece è stato entusiasta, esagero, quando gli ho proposto di venire in questo posto, che quando glielo proposi era ancora una, diciamo, quindi mi giocai questa cosa un po' al buio, nel senso che non era detto che la cosa andasse a buon fine. Mi ha detto una cosa che per me non mi indica nozze, ha detto: è un centro sociale per over 40, e io ho detto: ok, è il posto mio. E quindi intanto gli sono grato. E che cosa è Book, lo devo dire io. Allora, Book è un acronimo. Gino, Matteo, ce la puoi fare? Va bene, allora, questo posto che si chiama Book, che è un acronimo per Biblio Officina Occupata di Quartiere, è uno spazio che abbiamo occupato, che hanno occupato alcuni quarantenni, anche alcuni, anche qualche ventenne, insomma. Anche per i quarantenni. Vabbè, over 40, cioè, dopo i 40 in avanti, cioè, ci sono anche io, che abbiamo occupato a giugno di quest'anno per realizzare quello che in buona parte già vedete, ma insomma i lavori sono ancora in corso, cioè una biblioteca di quartiere, che il cui fondo costitutivo viene dalla biblioteca del Laboratorio Z, ma che si va incrementando. Per esempio, giusto stasera Antonio Sellerio ci ha donato un po' di libri, no, va detto, diciamo, non per rendere merito, e anche per sollecitare le donazioni, però ovviamente non delle cose più scrause che trovate, cioè tipo devo sgomberare questo libro che mi ha regalato, mia cognata Bruno Vespa. No, però Bruno Vespa io, perché diciamo che quindi biblioteca di quartiere è anche una ciclo officina che è in corso di allestimento, che sarà anche nelle nostre ambizioni una biblioteca delle cose, insomma, l'abbiamo chiamata, cioè un luogo in cui tutta una serie di oggetti un po' legati alla manutenzione, non solo delle biciclette, potranno essere condivisi, quindi presi in prestito, scambiati è ovviamente un posto che insomma si autofinanzia e che vive della disponibilità di tempo e di tutto il resto delle persone che hanno voglia di spendersi per questo posto. Basta, quindi direi che ho detto. Il romanzo, allora, La ferocia è il quarto è il quarto romanzo di Nicola Ruggiero, come può testimoniare appunto la mia devozione di lettore, perché ho portato questi libri non solo per dimostrare che quando parlo di una cosa mi preparo, ma perché veramente ho una, credo che Nicola La Gioia sia in questo momento, e lo sia stato anche negli anni precedenti e lo sarà per i prossimi 80, un autore importante, direi centrale, uno di quelli sui quali si calibra un po' l'andamento della narrativa di un paese, nel nostro caso l'Italia, cioè verrà il tempo, come accadeva nel passato con autori come Arbasino o Pasolini, in cui sostanzialmente i libri di Nicola saranno tra quelli che andranno ponderati per capire che cosa succede alla nostra letteratura. E La ferocia mi è sembrato in questo senso una sorta di come definirlo, una volontà di ribadire, visto l'intensità e la qualità di questo romanzo, queste premesse. Di che si tratta? È un romanzo lungo, intensissimo, che volendo sintetizzare senza spoilerare questa parola oscena che diciamo abbiamo inaugurato, che abbiamo appunto, e che, come dire, con uno spirito democratico mi sento di condividere, pur manifestando verso la stessa, diciamo, un orrore, avendo deciso di senza voler spoilerare, vi dico di che cosa parla questo libro. Questo libro parla di una famiglia diciamo il cui capofamiglia, scusate la ripetizione, è un grande imprenditore edile della Puglia contemporanea, e racconta l'ascesa di questo personaggio, che si chiama Vittorio Salvemini, l'ascesa economica e sociale di questo personaggio, e soprattutto le vicende, le dinamiche drammatiche, tragiche che avvengono all'interno di questa famiglia, che è composta da una moglie, Anna Maria, e da quattro figli, uno dei quali è un figliastro, perché è nato da una relazione extraconiugale del protagonista, che si chiama Michele, e che è il personaggio in qualche modo che un narratologo in qualche modo definirebbe forse l'eroe alla fine del romanzo. Eroe perché in una vicenda che raccontando questi personaggi, soprattutto dei figli del primogenito Ruggero, della vittima in qualche modo della vicenda, cioè della figlia Clara, di Michele, di cui vi ho detto, e di Gioia, eroe nel senso che si frappone alla fine in un meccanismo osceno di potere, di dominio, di stupro in tutti i sensi del territorio. Questo è il plot. Hanno già scritto quasi tutte le persone che hanno, tutte le recensioni che ho letto hanno insistito su questo aspetto, che una delle chiavi per comprendere questo romanzo, che ovviamente è un, tra le tante cose anche un grande romanzo allegorico sull'Italia contemporanea, sull'abiezione delle sue classi dirigenti, ma non solo, che è una delle chiavi allegoriche per coglierne il senso, che è dichiarata, aperta, sin dalle prime righe, ma fino alle ultime, è l'etologia, ma anche, se volendo, l'entomologia. Ci sono passaggi in cui la descrizione del comportamento degli insetti minuziose diventano strategiche per comprendere il senso complessivo del romanzo. L'etologia, cioè il comportamento degli animali, perché il comportamento animale diventa da una parte uno strumento per leggere il comportamento degli uomini, diventa anche una sorta di antagonista, diciamo, simbolico ai comportamenti dei sapiens, come direbbero i miei figli, ripetevamo Madagascar 2, cioè rispetto alla natura, ma anche, come dicevo, probabilmente un elemento di resistenza, specie nel momento in cui prova a tornare a guardare a quel tipo di comportamento. Avevo pensato di dire all'inizio, una buttata, che in realtà questo romanzo è il romanzo di una gatta. Ora, Nicola è un gattaro straordinario, e per molti aspetti questo romanzo è il romanzo di una gatta, che è la gatta dell'eroe del romanzo, che è Michele, e che concorre a costruire questo quadro etologico di cui vi dicevo. Sto per non parlare più perché vorrei che parlasse Nicola, però insomma per dirvi delle cose belle che ci sono, almeno di alcune cose belle che mi pare che ci siano in questo romanzo. La costruzione di tutto questo, perché questa storia può essere, le storie possono funzionare o non funzionare, ma la partita della letteratura la si gioca poi sempre altrove, cioè sul terreno della lingua, della costruzione. Allora, uno degli elementi più straordinari della costruzione della ferocia è il fatto che per tutto il romanzo, ma soprattutto per la prima delle tre sezioni del romanzo, la sovrapposizione nel plot, nell'organizzazione del racconto, la sovrapposizione dei tempi della narrazione è costante. Leggendo il romanzo, simultaneamente ti viene raccontato qualcosa che accade in quello che si sarebbe chiamato il tempo della narrazione, ma nello stesso tempo quello che era accaduto ora 10, ora 20 o 30 anni prima. Dunque, non leggete un romanzo che si sviluppa per l'asse diacroniche: prima è successo questo e ve lo racconto, poi è successo quest'altro e ora vi racconto quest'altro, poi alla fine è successo quest'altro ancora, l'epilogo ve lo racconto. E in questo senso un po' è come se il romanzo contenesse nel suo capitolo iniziale, e contiene nel suo capitolo iniziale l'epilogo, e questo contenere nel suo capitolo iniziale l'epilogo, che poi insomma, è una vicenda che viene faticosamente ricostruita, è anche un po' una uso le parole, una parola, no, non la uso, sennò poi, vabbè, sì, la uso, ci sono un po' di miei studenti, quindi una mise en abyme dell'intero romanzo, cioè una strategia con la quale tu nel primo nelle prime pagine racconti di fatto tutto il resto. Non è una cosa nuova, lo va anche Manzoni per dire, nei primi due capoversi del primo capitolo. Però questa strategia che si innesta in questo lavoro straordinario che ha fatto Nicola Lagioia di mantenere costantemente questi piani del racconto, questi piani temporali del racconto in sovrapposizione, diventa straordinario. Però non mi fermerei, e poi ora cominciamo, direi, da subito a sentire te e poi a chiacchierare con noi due e noi. Ok, lo scherzo, il microfono. Possiamo spostare così, ecco. Allora, niente, buonasera. No, la cosa che diceva Matteo col cavolo, io, cioè, proprio quando mi ha detto vieni da Book, io proprio subito di corsa, poi il fatto anche di appunto non essere, a proposito di under 40 over 40, di non essere più proprio un pischello, fa sì che poi quando vado nei posti poi trovo anche un po' di facce amiche che magari non vedevo da tempo, quindi questa cosa qui, come dire, fa bene alla vita proprio. Trovo alcuni degli scrittori che avevo italiani che amo di più, tipo Carla Susani, che ho trovato stasera, che adesso si nasconde, e poi mi rendo conto, per esempio, è tra noi Carla Susani, e poi non lo so, poi per esempio mi rendo conto che avete che Book ha tra l'altro una programmazione bellissima, dopo di me, appunto, non il diluvio, ma dopo di me, grazie a Dio, Francesco Maino, che ha scritto il grande romanzo del Nord-Est, che c'è quando? Dopodomani, quindi, cioè, venire in un posto così per me è molto bello, grazie a vostra volta di essere venuti. E allora, io provo, insomma, a prendere un po' i fili di tanti anni delle altre sollecitazioni che ha lanciato Matteo. Sì, questa è la storia di una famiglia, la storia di questa famiglia Salvemini, una famiglia di palazzinari, una famiglia di costruttori, insomma, che intrattengono dei rapporti con il potere abbastanza compromettenti, insomma, una famiglia in cui il denaro, il marciume, il denaro e la corruzione marciano di pari passo in qualche modo. Mi sembrava interessante raccontare, perché partire appunto da una famiglia potente del sud di Bari in questo caso, perché mi sembrava che attraverso di loro fosse possibile poi raccontare un'intera società in qualche modo. Non pensate a chi è legato, quali sono i poteri legati a doppio figlio. A doppio figlio, anche domando sui padri e sui figli, a una famiglia di costruttori, e otterrete, se non tutta la società e se non tutti i poteri che reggono una città o un paese, ottenete un po', almeno, come dire, una parte per il tutto, no? I grossi costruttori sono legati a doppio filo ai politici locali, agli amministratori, con cui intrattengono dei rapporti di reciproco snervamento continuo, sia che si vada nell'ambito della legalità, sia che no. Pensate ai giornalisti, i media, i costruttori devono avere un rapporto continuo con alcuni addirittura se li comprano i giornali. Fatto Girone si è comprato il Messaggero, perché appunto nel momento in cui dovesse riempire, che ne so, le coste laziali di cemento, sicuramente non sarà il Messaggero a tuonare contro. E poi appunto gli ingegneri, i geometri, gli operai, eventualmente la criminalità organizzata. I Salvemini sono dei pescecani, no? Per già agganciarsi alla questione etologica di cui parlava Matteo. Se non fosse che in questa famiglia, che non è rappresentativa di ogni famiglia italiana, ma è secondo me rappresentativa di ogni familismo amorale italiano, che è uno, insomma, dei problemi del nostro paese, ma non da Monte, dai tempi di Roberto e dei viceré, questa cosa qui c'è. Se non fosse che in queste famiglie magicamente ogni volta, grazie al cielo, per una questione appunto non so se statistica o di destino, nascono poi delle pecore nere, nascono dei figli sbagliati, nascono delle serpi in seno. Queste serpi in seno, questi figli sbagliati, questi vasi di coccio fra vasi di ferro, sono quelli per cui eventualmente credo che il lettore parteggerà. o comunque può essere spinto a parteggiare, anche se sono dei personaggi molto contraddittori anche loro, sono appunto questa Clara e questo Michele, questi due fratellastri. Michele è nato appunto fuori dal vincolo matrimoniale per una distrazione che il capo famiglia, il capo clan, a seconda di come vogliamo chiamarlo, Vittorio, si è concesso durante il suo ménage matrimoniale. In certe famiglie, insomma, o ti adegui o soccombi. No, pensate, che ne so, guarda, Edoardo Agnelli che si lancia dal viadotto, se nasci in una famiglia anaffettiva e algida come gli Agnelli e sei un po' sensibile, può capitare che tu ti butti dal viadotto. Anche se sei un po' meno sensibile, può capitare che ti ficchi nei guai. Pensate all'Apo per rimanere nella stessa famiglia. Se ti chiami Jamel Khan, sei fatto della stessa pasta, cioè algido e anaffettivo pure tu, probabilmente non ti succede niente. E allora questi esempi in seno, che sono Clara appunto e Michele, in realtà sono questi due fratellastri che a un certo punto si riconoscono, non si capisce come. Questi figli sono quattro figli, uno appunto è quello riuscito che si chiama Ruggero, che fa l'oncologo, la seconda gente è Clara, che è quella che muore a pagina 3, lo si può dire senza fare lo spoiler, perché appunto non, questa qua, il romanzo inizia che c'è questa ragazza che avanza nuda e insanguinata sulla statale 100 a Bari, che è la strada che congiunge Taranto e Bari, muore appunto dopo poche pagine, sembrerebbe un suicidio, ma forse le cose non sono andate così, quindi questo romanzo ha anche un po' un travestimento noir, anche se in questo caso il noir è un mezzo e non un fine. E poi c'è Gioia, che è l'ultimogenita, che è una ragazzina un po' frivola. Allora questi due fratelli però di mezzo, questo Michele e questa Clara, a un certo punto si riconoscono, cioè capiscono che stanno crescendo in una famiglia abietta, in una famiglia insomma che loro percepiscono come il nemico, e stringono a un certo punto una sorta di tacita alleanza, per mettersi di traverso, per remare contro la loro stessa famiglia. Questo è un po' il cuore, secondo me, non ho detto che l'autore abbia l'interpretazione giusta di quello che ha scritto, queste presentazioni a me mi servono pure per riuscire a capire che cosa ho scritto, piano piano magari arrivo a sfiorare il problema. E in tutto questo, appunto, la ferocia che dà il titolo al romanzo, che cos'è, secondo me? È il clima emotivo che pervade un po' tutto il libro. Io scrivo un libro ogni 4-5 anni, sono lentissimo, stamattina a modo suivendi dicevo più o meno la stessa cosa, perché appunto lavoro molto sulle pagine, perché poi sbaglio, sbando, non sono uno che si fa uno schema e quindi arriva a scrivere un libro sulla base di uno schema. Per me la scrittura di un romanzo è un'esperienza conoscitiva, devo scoprire qualcosa scrivendo e quindi sbaglio scrivendo, quindi torno indietro, riaggiusto e quindi ci metto 4-5 anni. Perché sto dicendo questa cosa qui a proposito della ferocia, che è il clima emotivo che pervade tutto il romanzo? Perché ovviamente in 5 anni le cose cambiano, cambia la mia vita personale, ma cambiano anche le cose intorno a me. Io ho pubblicato il mio precedente romanzo, che si chiamava Riportando tutto a casa, che avevamo un ministro dell'economia che diceva che la crisi non sarebbe mai arrivata, era lo stesso ministro dell'economia che diceva che con la cultura non si mangia. Tutto questo è sbagliato due volte, da una parte perché che ne so, la libreria indipendente dove ho presentato il romanzo io l'altra volta c'è ancora, questo ministro non è più ministro, ma poi invece perché la crisi invece ci sta prendendo a schiaffi già da qualche anno, cioè nel frattempo l'atmosfera mi sembra che si sia incattivita, che si sia incrudelita, che sia diventata appunto più feroce. Allora, che cos'è la ferocia? Io ho capito dopo aver scritto il libro, è un po', cioè, ho imparato un po' a definirla, è un po', secondo questo libro qui, è un po' il ritorno dello stato di natura ogni volta che noi crediamo di essercene emancipati. E questa cosa qua tocca un po' tutti quanti. Il XXI secolo è iniziato in maniera diversa da come noi prevedevamo e auspicavamo. La legge della giungla, no? Civiltà e barbarie, alla fine. Ecco, civiltà e barbarie, come dice. Che tempismo. Serendipitis, dice l'inglese. Civiltà e barbarie è, come dire, sono i due opposti. E ora non voglio dire che ci sia stato un rovesciamento già della civiltà e della barbarie, ma che cos'è appunto la ferocia? Se appunto cinque persone di noi fossero messe intorno a un tavolo e intorno a questo tavolo ci fosse, non è cordito, è solo polvere da sparo, quindi tranquilli, e ci fossero cinque piatti di pasta intorno a è uscita Gilda che è stata professoressa di turno sono cinque persone appunto di noi intorno a una tavola, ci danno cinque piatti di pasta, poi ce ne danno quattro, poi ce ne danno tre, poi ce ne danno due, poi ce ne danno uno. Quando è il momento in cui uno di noi sottrae il piatto di pasta agli altri anziché dividerlo con gli altri? Quella è appunto la ferocia. I sanguemini, che sono già dei pescecani, che sono appunto, potrebbero essere, come se, cioè, mi hanno chiesto spesso in interviste di questi giorni, ma chi sono? I Matarrese, i De Lorenzo, i Caltagirone? Ma nulla è vero in questo romanzo, ma tutto credo che sia abbastanza verosimile. Questi costruttori appunto non si fanno scrupoli, sono già feroci per i fatti loro, figuratevi in un momento di crisi in cui appunto anche le famiglie potenti rischiano, come dire, di il terreno solido che hanno avuto sotto i piedi fino al giorno prima si può trasformare in delle sabbie mobili. Se non fosse che Clara e Michele non sono così, o meglio, non sono del tutto così, questo fratellastro e questa sorellastra che si mettono di traverso, sorellastra che muore appunto a pagina 3 del romanzo, non sono così perché parlano un linguaggio diverso rispetto a quello dei loro genitori, anche un linguaggio che li può fare andare poi a sbattere in faccia contro un muro, però appunto gli animali, tu dicevi Matteo, gli animali, noi la ferocia normalmente la attribuiremmo, no, agli animali, questo romanzo è pieno di animali, mentre Clara sta lì che muore, cammina nuda insanguinata sulla statale, ci sono le falene, poi compare un topo di fogna, poi compare un gatto, poi compare un altro animale, cioè è pieno di animali questo romanzo, poi appunto magari ne parliamo in maniera più approfondita. Noi la ferocia normalmente la attribuiremmo a certi animali, ai predatori, agli animali notturni, questo è un romanzo notturno. Gli animali però non fanno delle cose che noi facciamo dal punto di vista della ferocia, non costruiscono i campi di concentramento, non bombardano Gaza, non lanciano le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, questo comunque non va al nostro lustro, però noi siamo capaci di fare occasionalmente delle cose che gli animali non fanno. Gli animali, anche appunto, tu dicevi il romanzo della gatta di Michele, io ho una gatta, sono gattaro, appunto come diceva Matteo, però so benissimo che nella mia gatta domestica, stupidona com'è, però se entra un topolino a casa, un animale, uno scarafaggio piccolo, un uccellino, lo insegue, non può fare a meno di provare ad ammazzarlo, cioè segue il movimento circolare della violenza della natura, quella roba lì, è la sua natura, come la favoletta di Orson Welles sulla rana che si prende e lo scorpione sulle spalle, e quello appunto dice, no, l'apologo è, mi aiuti ad attraversare il fiume, e la rana dice allo scorpione, ma se sono scema, tu mi pungeresti? E lo scorpione fa, ma se io ti pungo mentre attraversiamo il fiume, io affondo insieme a te. E allora si convince, dice, va bene, ok, giustamente. E mentre stanno lì in mezzo al fiume, pa! Lo scorpione la punge, e mentre affondano tutte e due, la rana ha fatto, oh, mi hai punto. E lo scorpione risponde, certo, la mia natura, che ti devo fare? E allora la gatta fa questa cosa qui, gli animali fanno questa cosa qui. Noi, invece, occasionalmente, noi facciamo pure così, ovviamente, non saremo come stiamo messi, però noi siamo capaci, occasionalmente, episodicamente, raramente, di autosabotarci, cioè di sradicare noi l'istinto di prevaricazione che ci porta normalmente a sbranarci gli uni con gli altri, ma ci porterebbe a farlo sempre, mentre noi abbiamo dei momenti di discontinuità in cui, grazie a Dio, riusciamo a, appunto, a ribaltare questo istinto qui, questa cosa qui. Clara e Michele ribaltano spesso questo, è una forma di amore questa qui, una forma rozza di amore, non è l'amore dei santi, non è l'amore assoluto, però è una forma d'amore in cui c'è dato di inciampare. Non so se noi ci inciampiamo attraverso un atto enorme di volontà o attraverso, che ne so, il fatto di essere toccati da qualcosa di ulteriore. Qualcuno potrebbe dire la grazia, qualcun altro potrebbe dire semplicemente un allineamento di pianeti che fa sì che noi siamo più buoni un giorno rispetto ai giorni in cui saremo normalmente cattivi, ma questa cosa qui, appunto, noi siamo capaci di farla. Clara e Michele sono capaci, in questa famiglia qui che di solito non si comporta in questa maniera, di fare questa roba qui, cioè di autosabotarsi. Ovviamente non è una questione, come dire, soltanto di vita o di morte. Pensate a quando litigate, quando litighiamo con una persona, quando io litigo con mia moglie, anche quando ci ho torto, ed è chiaro a me dal punto di vista proprio sillogistico che ci ho torto, è il contrario anche, è difficilissimo dire ci ho torto, ma non perché in quel caso, come dire, è la ragione che sta parlando un automatismo che è un automatismo animale, perché sei in una specie di trans agonistica, da cui appunto non riesci a smarcarti, eppure a volte riesci a smarcarti, è questo appunto il miracolo che appunto c'è, in cui c'è dato di incappare, tanto che mi viene da dire che in un mondo, che un mondo migliore di questo, in cui non fosse più possibile questo autosabotaggio, sarebbe un mondo che darebbe meno speranze rispetto a un mondo peggiore di questo, in cui questo fosse appunto ancora possibile, come appunto ancora è. E appunto, tra i tanti modi in cui si può vedere questo romanzo, è un romanzo in cui questi due opposti, da una parte la regola dei pescecani e dall'altra la regola dei pescecani, che però a un certo punto non fanno più i pescecani, quindi c'è questo elemento di discontinuità, ecco, tra questi sono i due poli, secondo me, o tra i due poli estremi in cui si muove appunto questo, o prova a muoversi questo romanzo. Vi leggo, direi, a questo punto un passo che mi pare esemplificativo assai di questo discorso sugli animali e sull'etologia, che si trova tra l'altro nell'epilogo del romanzo, a pagina 404. Uno degli interlocutori di questo, aspettate, di questo dialogo che vi sto leggendo è appunto Michele, quello che potremmo abbiamo chiamato l'eroe, ma forse anche il sabotatore potremmo definire, cioè il figlio, uno dei figli della famiglia Salvini. E Michele sta confrontandosi, sta parlandosi con, diciamo, uno degli svariati personaggi corrotti, ma diciamo uno dei tanti personaggi che nel romanzo hanno un prezzo e che agiscono dentro il romanzo sulla base di quelle regole animalesche che illustrava prima Nicola. Non vi dico chi è, ma insomma è uno di questi antagonisti, diciamo, che Michele comincia a, in qualche modo, a riconoscere come tale nel momento in cui prova a ricostruire la vicenda di questa sorella, la storia della morte di questa sorella. Michele stava zitto, il cielo sulle loro teste era una lastra di turchese e Clara lo aveva abbandonato. Era accaduto in questo modo, aveva mollato la presa su di lui, lo aveva lasciato solo al mondo, libero per sempre. «Lo sai qual è la disciplina che meglio spiega il nuovo secolo?» disse ancora l'uomo. Una leggera brezza marina scompigliava i capelli di entrambi. «L'etologia», si rispose il direttore tecnico. «Metti una volpe affamata davanti a un branco di conigli. Corri in una piazza piena di colombi e li vedrai volare. Trovami il colombo che non vola». «Non siamo animali, facciamo cose strane», disse Michele. Lo ha scritto, mi pare, il critico che ha recensito il libro su Alias, di cui parlavamo oggi, se non ricordo male, Letterati. Lo avevo pensato anch'io quando ho letto questo, ho avuto esattamente questo pensiero, che Michele è il colombo che non vola, rispetto ai movimenti primordiali non solo della sua famiglia, ma del contesto sociale al quale la sua famiglia partecipa. Lui è il colombo che non vola. E allora, rispetto a questo, la ferocia, il romanzo feroce, implacabile, è anche un romanzo che mi pare che ci restituisca una possibilità, appunto, di, se non di sabotare, come dicevamo prima, i meccanismi che abbiamo illustrato, quantomeno, se non altro, la possibilità appunto di agire comportamenti difformi da quelli che l'istinto animale che sembra regolare le vite di queste persone prevederebbe. E il fatto che ad agire questi comportamenti, sebbene in maniera assai diversa, siano due trentenni, insomma, di due figli di questa generazione, due esponenti di questa generazione, perché questo è anche un feroce romanzo contro la generazione dei padri, mi ha lasciato da lettore, dopo insomma, una fatica una fatica significativa a prendere atto di diciamo, dell'analisi che fa in questo romanzo, quantomeno la possibilità appunto di fare il colombo che non vola c'è. Scusate, e su questo poi ti volevo chiedere se e come questo tema delle generazioni si intreccia con gli altri romanzi. A me sono venuti in mente altri passi, sia di Occidente per principianti, che è un libro molto diverso da questo, ma su cui ti volevo interrogare, e poi anche di Riportando tutto a casa, che è un altro romanzo, stilisticamente e anche concettualmente forse più vicino alla ferocia di quanto non sia vicino al precedente Occidente per principianti, ma che è un altro romanzo che istruisce una requisitoria implacabile verso la generazione di padre. Penso per esempio ad alcuni momenti di quel romanzo, uno, l'urlo che si diffonde nella nazione quando Platini segna il rigore della finale di Coppa dei Campioni che la Juventus giocò con il Liverpool nel 1985 malgrado Leisel. O penso anche, a proposito della generazione dei padri, di come nell'epilogo di quel romanzo, di Riportando tutti a casa, quel gesto assai significativo che compivano i padri e le madri in quel romanzo, cioè quello di, nel corso di una gita in barca, di spogliarsi dei loro vestiti, di fare un bagno nudi, in un certo senso annunciasse questa ulteriore come chiamarla, involuzione, ma anche questa ulteriore scarnificazione di qualsiasi sovrastruttura culturale rispetto a comportamenti ancestrali in qualche modo. Sì, questo è un, forse qui c'è un conflitto, anche se qui ci sono dei padri più saturnini rispetto forse a Riportando tutto a casa, qua secondo me l'elemento del conflitto generazionale forse c'è un po' meno che Riportando tutto a casa, dove era più forte, anche perché Riportando tutto a casa c'entra anche quello che c'è intorno, no? Era stato scritto in piena epoca proprio dell'Italia gerontocratica, era durante proprio gli ultimi colpi di coda del governo Berlusconi, e poi invece non so se qualcuno ha visto Berlusconi invece di Franco Maresco, c'è cioè quel bellissimo finale nel segno non del conflitto generazionale ma della continuità, almeno dal punto di vista linguistico, no? Quando Berlusconi viene fatto fuori e arriva Renzi da amici, da De Filippi, quindi come dire, se un avversario parla lo stesso linguaggio, se parli lo stesso linguaggio del tuo avversario o se parli lo stesso linguaggio del padre che vorresti deternizzare, sei già lui, è sempre una questione linguistica da questo punto di vista. La ferocia rispetto a questo è però un romanzo, ed effettivamente sono d'accordo con quello che dici, sulla possibile discontinuità della linea retta, cioè non è che per forza, come dire, non è vero che la mela cade sempre così vicina rispetto all'albero, non è vero che buon sangue non mente, a volte grazie a Dio il sangue mente e mente anche in maniera salvifica. Quando per esempio Anna Maria, che sarebbe la moglie di Vittorio, è incinta di Clara, sin dal momento in cui porta in grembo sta bambina c'è qualcosa che non va, cioè questo, sin da quando Clara è un feto, in qualche modo sembra quasi che proprio biologicamente, proprio a livello di sangue, non è, è una bambina che darà filo da torcere alla madre, darà filo da torcere al padre, e forse appunto in linea re, ecco, per esempio citava quel che non conosco, questo Luca I Letterati, che ha scritto il pezzo su Alias, citava una figura che effettivamente è vero, l'avevo beccata rispetto al mio background, che è la figura di Anno Bundebrock, che è il figlio scemo dei Bundebrock, che a un certo punto pone fine alla dinastia perché appunto nasce scemo, però lo dico in senso buono, l'idiota della famiglia. Per Sartre Flaubert era l'idiota della famiglia, no? Idioti dostoevskiani, quindi personaggi salvifici a un certo punto, che grazie alla loro, tra virgolette, idiozia, mettono in crisi il contesto in cui vengono alla luce. Allora, per esempio, Clara, prima ancora che venga alla luce, se posso leggere proprio due righe anch'io, c'è Anna Maria, appunto, che è molto, molto, molto connivente con il marito, ha nausee continue. Sta bambina qui le dà un sacco di problemi rispetto al primogenito. E insomma, possibile che un feto di 20 settimane stesse facendo questo? Anna Maria sapeva che alla fine del primo trimestre sviluppano l'olfatto, nel secondo nuotano con sicurezza nel liquido amniotico, scalciano per rispondere a non meglio precisate sollecitazioni. Questa bambina però la stava distruggendo. Sembrava che abitasse le sue carni con una naturale ostilità. La sua presenza è malvagia, si sorprendeva a pensare Anna Maria. Aveva l'impressione che per l'intelligenza del feto, un'arcaica scatola delle meraviglie che diventano incubi a contatto col mondo esterno, lei fosse un nudo involucro da sfruttare senza pietà. Per quanto assurdo, era come se Clara, che ha ancora 7 mesi nella pancia della mamma, era come se Clara fosse figlia non di un altro padre, ma di una madre diversa. Un remoto principio femminile che, conoscendo, anzi approvando, la ferocia della bimba, l'avesse posta in un grembo verso cui non era necessario essere clementi. Quindi addirittura la madre ha come l'impressione che fosse questa figlia che porta paradossalmente nel grembo di un'altra madre, non di un altro padre. Perché appunto Clara spezza questa, e Michele ancora di più, questa roba qui, cioè la discendenza in linea retta anche dal punto di vista etico, dei principi, delle inclinazioni, proprio della sensibilità. E appunto, quindi, perché nasce in un contesto, come dire, avverso, che poi il contesto che, devo dire, ho frequentato io, cioè io a base, la cosa interessante, questa cosa credo che valga per la Puglia, ma anche un po' per tutto quanto il sud, cioè che sono luoghi, almeno per me, che poi mi sono spostato, vivo a Roma per lavoro, ma sono dal 97-98, quindi questo fa sì che pensi molto alla terra che ho abbandonato, mi sembra contemporaneamente la Puglia, almeno di questo libro, un luogo contemporaneamente, da una parte, quasi metafisico, che si possa sfrangiare di per sé, dall'altro invece di brutale, proprio brutalissima, di brutale pragmatismo, che non viene soltanto dagli imprenditori, dai piccoli, grandi, ma anche dai loro genitori, che erano a loro volta proletari e sottoproletari. Vi ricordate la poesia, la ballata delle madri di Pasolini, no? Che accusando i giornalisti comincia dicendo: io mi domando che madri avete avuto se adesso vi vedessero al lavoro, chiusi in un cerchio mai concluso di esperienze così diverse dalle loro. Che cosa direbbero se vi vedessero lì mentre scrivete i vostri pezzi conformisti e barocchi, eccetera eccetera. Queste madri qui chi sono? No? Sono le nonne, sono i miei nonni, sono le nonne dei miei coetanei che frequentavo a Bari, cioè, perdonatemi l'aneddotica, che ne so, una volta con un mio amico, un mio carissimo amico, il mio migliore amico della scuola media, si chiamava Cristiano, perciò aveva il padre che era uno di questi pescecani, era un rappresentante di Vini Mio Netto, mi ricordo, che era uno proprio che era una specie di schiacciasassi terrificante, e in quel caso buon sangue non mente, la mela non cade lontana dall'albero, andiamo a trovare la nonna di questo, ricordo era una domenica, c'era ancora Papa Wojtyla che appunto faceva l'Angelus, poi sta seduta davanti al televisore e fa: Cristo è grande, Cristo è grande. Parlava da solo, Cristo è grande. E poi fa: nonna, ma perché Cristo è grande? Scusa. Nonna, no, cioè, in Puglia c'è il vocativo al contrario, ma forse anche qui, no? A zia, a nonna, e la nonna che dice nonna. A nonna, Cristo è grande perché io, no, ti ricordi che cosa faceva nonna durante la seconda guerra mondiale, no? E faceva quello che faceva, faceva l'usuraia, faceva quello che faceva, allora prestava, che te lo prestare i soldi a Comaiannin. Ecco, ma Iannin, questi soldi non me li ha restituiti. Oh, Cristo non ci ha fatto morire un figlio alla campagna di Russia, e quindi Cristo è grande. Cioè, questo può piegare, no? Addirittura era piegata la religione agli interessi passivi, tanto per dire, no? E lì, appunto, Clara nasce in quel contesto lì, anzi nasce in un contesto che sono quindi i genitori di scusate, i figli che nel frattempo, no, se uno vede Rosa Berlusconi si rende conto qual è proprio la filiazione in linea retta, cioè è proprio... E però appunto si mette in qualche modo di traverso, si mette di traverso e poi però generando, boh, forse questo non so se lo diciamo dopo, sul rapporto fra Clara e Michele, cioè sul fatto dei fratelli, dai, mi fermo qua, poi magari ci torno su questa roba qui. Prova ad imbeccarti su questo. Vabbè, Clara è un personaggio che oppone resistenza, però la cosa... Per me uno degli elementi più tragici del tuo romanzo è il fatto che le vicende di Clara vengano cannibalizzate dalla famiglia in qualche modo, più a vari livelli di consapevolezza, per i propri interessi economici. Cioè Clara viene stritolata da quei meccanismi e rispetto a questo vi leggo un altro passaggio a proposito di generazioni conflittuali, pagina 69. Andiamo tutti a pagina 69. Allora, che è questo? Quando moriva un sedicenne, talvolta anche un ventenne, le chiese erano invase da questo esercito di ragazzini e ragazzine. Non si erano mai spinti oltre una quasantiera del giorno della cresima, dal giorno della cresima, e non sarebbero tornati per molto tempo. Una languida, rabbiosa carica di corpi in fiore. Non c'era santa che pareggiasse il profumo di frutta e sudore di una quattordicenne in lacrime per la scomparsa di un'amica. Pura fonte serena di bimba, recitò ancora il sacerdote. Quando ad andarsene erano i sessantenni, accorrevano i colleghi di lavoro. I novantenni erano specializzati nel trascinarsi dietro interi paesi.